Ad alta voce. Chiara Guidi legge Memorie del sottosuolo di Fyodor Dostoevskij. Traduzione di Alfredo Polledro. Quindicesima puntata. Mi voltai con disgusto. Non ero più un freddo discettatore. Cominciavo anch'io a sentire che parlavo e mi riscaldavo. Avevo già sete di esporre le mie ideuzze segrete, acquisite nel mio angolo. Qualcosa si era acceso a un tratto in me e mi era apparso uno scopo. Non badare a me, al fatto che sono qui. Io non devo servirti di esempio. Forse sono ancora peggio di te, del resto sono entrato qui ubriaco, mi affrettai a dire, però giustificandomi. Inoltre l'uomo non deve affatto servire di esempio alla donna. È un'altra cosa. Io, anche se mi insudicio e mi sporco, non sono però lo schiavo di nessuno. Vado e vengo e non lascio traccia. Mi scuoto di dosso ogni cosa e non son più quello. Ma vediamo che cosa sei tu, fin dal primo momento. Tu, una schiava. Sì, una schiava. Tu dai via tutto, tutta la tua volontà, e vorrai poi spezzare queste catene, ma non potrai più. Sarai impastoiata sempre più fortemente. È una catena maledetta. Io la conosco. Di altro non parlo neppure, magari non capiresti. Ma dimmi un po', dimmi. E di sicuro sei già in debito con la padrona, vero? Vedi. Soggiunsi, sebbene lei non avesse risposto, ma si limitasse ad ascoltare in silenzio con tutto il suo essere. Eccoti la catena. Non ti riscatterai mai più. Così faranno. È lo stesso che dar l'anima al diavolo. E inoltre, anch'io. E forse sono altrettanto disgraziato. Che ne sai tu? Mi fico apposta nel fango, anch'io, per la malinconia. Non si beve forse dal dolore? Io sono qui, dal dolore. Vedi, dimmi, che c'è di bello qui? Dimmelo. Ecco, noi due ci siamo uniti poco fa, e in tutto il tempo non ci siamo detti una parola, e tu poi ti sei messa a esaminarmi come una selvaggia, e io ho fatto lo stesso con te. È forse così che si ama? Forse è così che una persona deve unirsi con un'altra persona. Non è che un'indecenza. Ecco che cos'è. Sì, sì, disse lei, facendomi eco con asprezza e prontezza. Mi meravigliò perfino la prontezza di questo sì. Vuol dire che anche a lei, forse, ronzava per il capo lo stesso pensiero quando, poco fa, mi esaminava. Vuol dire che anche lei era già capace di certi pensieri. Che il diavolo mi porti. È un caso curioso, è affinità, pensavo io, e per poco non mi fregavo le mani. E come non venire a capo di un animo così giovane? Giovane, più di tutto era il gioco che mi attirava. Ella volse la testa, avvicinandola a me, e a quel che mi parve nel buio si appoggiò a un braccio. Forse mi esaminava, e come rimpiangevo di non poter distinguere i suoi occhi. Sentivo il suo respiro profondo. Perché sei venuta qua? Cominciai ormai con una certa autorità. Così. Eppure, come sarebbe bello vivere nella casa paterna. Si sta caldi, liberi. È il nostro nido. E se non fosse così bello? Bisogna trovare il tono giusto. Mi baleno dentro. Col sentimentalismo magari non c'è da far molta presa. Del resto non fu che un balenare, lo giuro. Ella mi interessava davvero. Inoltre ero come indebolito e predisposto. E poi la furberia se la fa così facilmente col sentimento. E se non fosse così bello? Chi lo dice? Mi affrettai a rispondere. Tutto può capitare. Infatti, sono sicuro che qualcuno ti ha offesa e che sono piuttosto gli altri a essere colpevoli verso di te che non tu verso di loro, vero? Io non so nulla della tua storia, ma una ragazza come te probabilmente non capita qui di sua volontà. Ragazza sono io, sussurrò lei appena percettibilmente, ma l'ho intesi. Che il diavolo mi porti, ma la sto adulando, è ignobile. Ma forse è anche un bene. Lei taceva. Vedi, Lisa, ti dirò di me. Se avessi avuto una famiglia fin dall'infanzia, non sarei quello che sono ora. Ci penso spesso, perché per quanto si stia male in famiglia, si tratta sempre del padre e della madre, non di nemici, non di estranei. Almeno una volta all'anno ti dimostreranno il loro affetto, sai, pur sempre che sei a casa tua. Io sono cresciuto senza famiglia, per questo probabilmente sono venuto su così insensibile. Attesi di nuovo. Ma magari non capisce, pensavo. E poi è ridicolo. Sono ridicolo a far la morale. Se fossi padre e avessi una figlia, mi pare che la figlia la amerei più dei maschi, davvero. Cominciai a dire lateralmente, come se parlassi di altro, per distrarla. Confesso che arrossivo. E perché? Domandò lei. Ah, vuol dire allora che sta a sentire. Così, non so, Lisa, vedi, io conosco un padre che era un uomo duro, severo, ma davanti alla figlia stava in ginocchio. Le baciava le mani, i piedi, non poteva stancarsi di ammirarla davvero. Lei ballava in qualche serata e lui stava lì senza muoversi per 5 ore. Non le toglieva gli occhi di dosso. Era pazzo di lei, questo lo capisco. Lei la sera era stanca, si addormentava e lui si svegliava e andava a baciarla, addormentata com'era, e a farle il segno della croce. Lui andava vestito con un giubboncino unto. Era avaro per tutti, ma per lei spendeva gli ultimi soldi, le faceva ricchi doni, ed era una gioia per lui se il dono era gradito. Il padre ama le figlie sempre più della madre. Per certe ragazze è un'allegria vivere in casa, e io credo che mia figlia non la mariterei. Ah, e come mai? Domandò lei, sorridendo appena appena. Sarei geloso, lo giuro. Via, come potrebbe mettersi a dar dei baci a un altro? A voler bene a un estraneo più che al padre. È doloroso perfino immaginarlo. Certo, tutte queste sono sciocchezze. Certo, ognuno alla fine torna ragionevole. Ma io credo che prima di concederla mi tormenterei già col pensiero. Boccerei tutti i pretendenti. E tuttavia finirei col concederla a quello che lei stessa amasse. E perché quello di cui la figlia si è innamorata sembra sempre peggiore di tutti al padre. Non c'è che dire, è così. Da questo derivano molti malanni nelle famiglie. Certi altri sono contenti di venderla la figlia, altro che darle marito con onore, disse lei a un tratto. Ah, ecco com'è. Questo Lisa cade in quelle famiglie maledette dove non esiste né Dio né amore, ripresi io con calore, e dove non esiste amore, non esiste nemmeno il giudizio. Ci sono famiglie come quelle, è vero, ma io non parlo di loro. Si vede che nella tua famiglia non hai conosciuto il bene, se parli così. Sei veramente, veramente una disgraziata. Per lo più tutto questo accade per via della povertà. Ma in casa dei signori è meglio. Anche se è povera, la gente per bene vive onestamente. Sì, Elisa, forse c'è anche questo. L'uomo ama tener conto solo del suo dolore e della sua felicità non ne tiene conto. Ma se ne tenesse conto a dovere, vedrebbe che ce n'è per tutti. Ma se invece nella famiglia tutto riesce, se Dio la benedice, se capita un buon marito e ti ama, ti vezzeggia, non si stacca da te. Si sta bene in quella famiglia, anzi, qualche volta si sta bene anche quando il dolore ci ha la sua parte. E dove non c'è dolore? Forse prenderai il marito e lo saprai da te. Invece, prendiamo magari solo il primo tempo che hai per marito quello che tu ami. Quanta felicità può venirti certe volte e ad ogni piè sospinto. Nel primo tempo perfino i litigi col marito finiscono bene. Ce n'è di quelle che quanto più amano, tanto più spesso imbastiscono litigi col marito. Davvero, davvero, io ne conoscevo una così. Ecco, diceva, io ti amo molto e per amore ti faccio soffrire, tu sentilo. Sai, Lisa, che per amore si può tormentare di proposito una persona? Sono soprattutto le donne. E lei intanto pensa fra sé. In compenso, poi lo amerò tanto. Sarò così affettuosa con lui che ora non faccio male a tormentarlo un poco. E in casa, Lisa, tutti si rallegrano nel vedervi e si vive bene, con letizia e tranquillità e onestà. Ce ne sono anche altre che sono gelose. Gelose, se lui se ne andava in qualche posto, ne conoscevo una così, lei non lo sopportava e in piena notte usciva e correva pian piano a guardare se non era là, se non era in quella casa, se non era con quella, e questo è già male. E sapeva anche lei che era male, e il cuore le veniva meno e si pentiva, ma il fatto era che amava. Tutto veniva dall'amore. E com'è bello dopo una lite fare la pace, chiedergli perdono, perdonare. E come si sentono bene tutte e due. Che bella sensazione hanno a un tratto, come se di nuovo si fossero incontrati, come se di nuovo si fossero sposati, come se di nuovo l'amore fosse cominciato fra loro. E nessuno deve sapere che cosa succede fra marito e moglie, se essi si amano fra loro. E qualunque litigio sorga fra loro, anche la propria madre, anche quella non devono chiamare a fare da giudice né raccontare l'uno dell'altra. Devono giudicarsi da sé. L'amore è un mistero divino e deve essere nascosto a tutti gli occhi estranei qualunque cosa accada. Ne diventa più sacro, migliore, il rispetto reciproco è maggiore e molte cose sono fondate sul rispetto. E se una volta c'è stato l'amore, se per amore ci si è sposati, perché dovrebbe passare l'amore? È forse impossibile alimentarlo? Di rado accade che non si possa alimentarlo. E quando capita per marito un uomo buono e onesto, come potrà passare l'amore? Il primo amore coniugale passa, è vero. Ma poi viene un amore ancora migliore. Allora ci si unisce nell'animo. Tutti gli affari si decidono in comune. Non si hanno segreti l'uno per l'altro. E quando vengono i figli, ogni momento, forse anche il più difficile, sembra una felicità. Basta amare e avere un animo virile. Allora anche il lavoro sembra allegro. Allora si rinuncia qualche volta perfino al pane per i figli e anche allegramente. Perché loro poi... loro ti vorranno bene per questo. È per te quindi che accumuli. I figli crescono e tu senti che sei loro di esempio, che sei un sostegno per loro, che anche se morrai, loro per tutta la vita porteranno in se stessi i tuoi sentimenti e pensieri come li hanno ricevuti da te. Saranno fatti a tua immagine e somiglianza. Vuol dire che è un grande dovere. Come potrebbero allora il padre e la madre non unirsi più strettamente? Dicono che avere bambini sia gravoso. Chi lo dice? Chi lo dice? È una felicità celeste. Ti piacciono i bambini, Lisa? A me piacciono immensamente, sai. Un piccino tutto roseo che ti succhia il petto. E quale sarà il marito che prenderà il nome di mamma? Vederla così, col proprio bambino. Bambino roseo, paffutello, che si distende e si crogiola. Quei piedini, quelle manine. Quelle unghiettine pulite, piccole, così piccole a guardarle. Vien da ridere. Quegli occhietti che è come se capisse già tutto. E succhia, succhia, succhia. Ti tira il seno con la manina, gioca. Il padre si accosta e lui si stacca dal seno. Si piega tutto all'indietro, guarda il padre e si mette a ridere. Proprio come se ci fosse da ridere. E Dio sa come. E ancora, ancora vuole succhiare, succhiare, succhiare. Oppure, chi è che non è morsica il seno alla madre? Se già gli spuntano i dentini e intanto la sbircia con i suoi occhietti. Vedi, ti ho morsicata. Ma non è forse tutta qui la felicità quando tutte e tre, il marito, la moglie e il bambino, sono insieme? Questi momenti fanno perdonare molte cose. No, Lisa, no. È un fatto che prima si ha da imparare a vivere noi e dopo si ha da accusare gli altri. Dei quadretti, proprio con questi quadretti, bisogna prenderti, pensai tra me e me, sebbene lo giuro avessi parlato con sentimento, e un tratto arrossì. E se tutta un tratto scoppiasse a ridere, dove andrei a cacciarmi allora? Questa idea mi mise in furore. Verso la fine del discorso mi ero veramente accalorato e ora ci soffriva in qualche modo l'amor proprio. Il silenzio si prolungava. Io volevo perfino darle uno scossone. Mi pare, cominciò lei a un tratto e si fermò. Ma io avevo già capito tutto. Nella sua voce vibrava già qualcos'altro, qualcosa che non era più aspro, non era più volgare e riottoso, ma dolce e pudico, tanto pudico che anch'io, non so come, cominciai a vergognarmi dinanzi a lei, a sentirmi colpevole. Che cosa? Domandai con affettuosa curiosità. Ma voi, che cosa? Mi pare che voi parlate come un libro, disse lei. E si sarebbe detto che tutto a un tratto qualcosa di canzonatorio risonasse di nuovo nella sua voce. Questa osservazione mi strinse dolorosamente il cuore, non era questo che mi aspettavo. Non avevo nemmeno capito che lei si nascondeva apposta dietro la canzonatura, che quella era la solita ultima scappatoia delle persone pudiche e caste di cuore, a cui si tenti penetrare nell'intimo, con volgare importunità, e che fino all'ultimo momento non si arrendono per orgoglio e temono di palesare il loro sentimento dinanzi a voi. Già dalla timidità con la quale ella era venuta in più tempi alla sua canzonatura e soltanto da ultimo si era decisa a metterla fuori, avrei dovuto indovinarlo. Ma non l'indovinai. E un sentimento maligno si impadronì di me. Aspetta dunque, pensai. Chiara Guidi ha letto Memorie del sottosuolo di Fyodor Dostoevskij, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it. Per riascoltare il programma, radio3pod.rai.it.